terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. La volta scorsa abbiamo letto uno dei passi più straordinari di questo libro straordinario, e cioè la scena davvero teatrale in cui Napoleone giunge a Mosca e guarda e contempla con emozione e soddisfazione la grande capitale asiatica, come la chiama lui, ai suoi piedi, e fantastica dei suoi atti futuri, figurandosi magnanimo e generoso coi vinti, immaginando la gratitudine che il suo comportamento avrebbe ispirato all'imperatore Alessandro, e progettando di intitolare tutte le pie istituzioni di Mosca al nome di sua madre e così via. E ordina dunque di convocare i notabili cittadini. Però il tempo passa e non arriva nessuno. La realtà è che Mosca è vuota, deserta, abbandonata da tutti i suoi abitanti. Sono rimasti soltanto un po' di ubriachi, alcuni sbandati, ma non c'è più nessuno. E lo smacco di Napoleone non poteva essere peggiore. Il colpo di scena, da lui sognato, è miseramente fallito. I soldati francesi, benché fossero laceri, affamati, stremati di forze e ridotti alla metà del loro antico effettivo, entrarono a Mosca ancora in file ordinate. Era un esercito stanco, abbattuto, ma ancora guerriero e minaccioso. Ma fu un esercito soltanto fino al momento in cui i soldati non si dispersero per gli alloggi. Appena gli uomini dei reggimenti cominciarono a spargersi per le case vuote e ricche, l'esercito fu distrutto per sempre. Quando, dopo 5 settimane, gli stessi uomini uscirono da Mosca, essi non formavano più un esercito. Erano una folla di saccheggiatori, ognuno dei quali si tirava dietro o si portava addosso un cumulo di cose che gli erano sembrate preziose e necessarie. Scopo di ognuno di questi uomini uscendo da Mosca non era più, come prima, la conquista, ma soltanto la difesa di ciò che aveva preso. Simili alla scimmia, che avendo infilato il braccio nella stretta gola di un vaso e afferrato una manciata di noci, non apre il pugno per non perdere quello che ha preso e con questo si perde, i francesi, uscendo da Mosca, dovevano evidentemente perire, perché trascinavano dietro a loro quello che avevano depredato, ma gettare via questa roba era impossibile, come è impossibile alla scimmia aprire il pugno con le noci. Gli abitanti rimasti invitavano i comandanti a casa loro, sperando così di difendersi dal saccheggio. C'erano ricchezze immense e senza fine. Tutto in giro, al posto occupato dai francesi, c'erano ancora luoghi non perlustrati, non occupati, nei quali, secondo i francesi, ci dovevano essere ricchezze ancora maggiori. E Mosca li assorbiva in sé sempre più. Proprio come, versando dell'acqua sulla terra arida, sparisce l'acqua e insieme la terra arida, così, come conseguenza dell'essere un esercito famelico entrato in una città doviziosa e vuota, si distrusse l'esercito e si distrusse la città doviziosa, e ne venne la sporcizia, ne vennero gli incendi e il saccheggio. L'assorbimento dei francesi, che si diramavano per Mosca come i raggi di una stella, raggiunse soltanto la sera del 2 settembre il quartiere dove ora abitava Pierre. Pierre, dopo aver passato quei 2 ultimi giorni in solitudine e in modo inconsueto, si trovava in uno stato prossimo alla follia. Un'idea unica, ossessionante, occupava tutto l'essere suo. Egli stesso non sapeva né quando né come ciò fosse accaduto, ma quest'idea l'aveva ora preso in tal modo che egli non sapeva più nulla del passato né del presente, ma tutto ciò che vedeva e udiva gli si presentava come in sogno. Pierre aveva lasciato la sua casa soltanto per sottrarsi al complicato arruffio delle esigenze della vita quotidiana che lo teneva prigioniero e che egli, nel suo stato di allora, non aveva la forza di districare. Era andato nell'alloggio di Iosif Alexeievich col pretesto di mettere in ordine i libri e le carte del defunto soltanto perché cercava un po' di riposo dalle agitazioni della vita. E col ricordo di Iosif Alexeievich si legava nella sua anima tutto un mondo di pensieri eterni, calmi e solenni, assolutamente opposti a quella confusione agitata nella quale si sentiva trascinato. Aveva cercato un rifugio e difatti lo aveva trovato nello studio di Iosif Alexeievich. Mentre egli se ne stava seduto nella morta pace dello studio, coi gomiti appoggiati alla polverosa scrivania del defunto, alla sua mente, uno dopo l'altro, cominciavano a presentarsi tranquillamente, ma con profondo significato, i ricordi degli ultimi giorni, e specialmente della battaglia di Borodino e del sentimento invincibile che aveva avuto della propria nullità e della propria insincerità a paragone della verità, della semplicità e della forza di quella categoria di gente la cui immagine gli era rimasta nell'anima e che egli chiamava loro. Quando Gerasim lo aveva risvegliato da quella meditazione, a Pierre era venuta l'idea di prendere parte alla difesa popolare di Mosca, che, per quel che egli sapeva, era stata progettata. E con questo scopo aveva subito chiesto a Gerasim di procurargli un gabbano e una pistola e gli aveva dichiarato la sua intenzione di rimanere nella casa di Iosif Alexeievich celando il proprio nome. Il giorno dopo andò alla barriera delle Tre Montagne. Ma quando tornò a casa, persuaso che Mosca non sarebbe stata difesa, sentì ad un tratto che ciò che prima gli si presentava soltanto come una possibilità, ora era diventato necessario e indispensabile. Celando il suo nome, doveva restare a Mosca, incontrare Napoleone e ucciderlo, sicché sarebbe perito o avrebbe fatto cessare le sventure di tutta l'Europa, che provenivano, secondo l'opinione di Pierre, dal solo Napoleone. Pierre conosceva tutte le circostanze dell'attentato contro Bonaparte commesso da uno studente a Vienna nel 1809 e sapeva che questo studente era stato fucilato. E il pericolo al quale egli esponeva la sua vita nel compimento del suo proposito lo eccitava ancora più fortemente. Due sentimenti ugualmente forti trascinavano ineluttabilmente Pierre verso la sua idea. Il primo era il bisogno di sacrificarsi e di soffrire per la coscienza della sventura comune, quel sentimento per seguire il quale il 25 era andato a Mosaisk e s'era gettato nel fuoco della battaglia e ora era scappato dalla sua casa e invece di godere del lusso e degli agi ai quali era abituato dormiva senza spogliarsi su un duro divano e mangiava lo stesso cibo di Gerasim. L'altro era quel vago sentimento esclusivamente russo di disprezzo per tutto ciò che nella vita umana è convenzionale, artificiale, per tutto ciò che dalla maggioranza è considerato il supremo bene del mondo. Erano già quasi le 2 del pomeriggio. I francesi erano già entrati a Mosca, Pierre lo sapeva, ma invece di agire non faceva che pensare alla sua impresa, analizzandone tutte le minime circostanze future. Pierre, nelle sue fantasticherie, non si rappresentava al vivo né il modo preciso di assestare il colpo né la morte di Napoleone, ma con insolita chiarezza e con triste soddisfazione si rappresentava la propria rovina ed il proprio eroico coraggio. Ad un tratto, un grido penetrante di donna risuonò dall'entrata e la cuoca venne di corsa nell'anticamera. «Sono loro! Padri santi, com'è vero Dio, eccoli! 4 a cavallo!» gridava. Gerasim e il portinaio lasciarono andare Makar Alexeievich e nel corridoio tornato silenzioso si udirono chiaramente i colpi che alcune mani battevano alla porta di entrata. Pierre, che aveva stabilito dentro di sé di non rivelare né il suo nome né la sua conoscenza della lingua francese fino al compimento del suo disegno, se ne stava presso la porta socchiusa del corridoio, con l'intenzione di nascondersi subito non appena fossero entrati i francesi. Ma i francesi entrarono che Pierre non si allontanava ancora dalla porta. Una invincibile curiosità lo tratteneva. Erano 2. Uno era un ufficiale, un bell'uomo alto e dall'aria ardita. L'altro era evidentemente un soldato o un attendente, un uomo bassotto, magro, abbronzato, con le gote infossate e un'espressione stupida in viso. L'ufficiale, appoggiandosi a un bastone e zoppicando, camminava innanzi. Fatti alcuni passi, l'ufficiale, come se avesse stabilito fra sé che quell'alloggio era buono, si fermò, si volse indietro verso i soldati che stavano sulla porta e ad alta voce, con tono di comando, gridò loro che facessero entrare i cavalli. Fatto questo, l'ufficiale, con un gesto baldo, levando alto il gomito, si raddrizzò i baffi e portò la mano al cappello. «Bonjour, la compagnie!» disse allegramente, sorridendo e guardandosi intorno. Nessuno rispose. «E allora? Non si parla francese in questa casa?» aggiunse, guardandosi in giro e incontrando lo sguardo di Pierre. Pierre si ritirò dalla porta. L'ufficiale francese, sorridendo, allargò le braccia e zoppicando andò verso la porta presso la quale stava Pierre. Pierre voleva andarsene, ma in quel medesimo istante vide dalla porta aperta della cucina Makar Alexievich che si affacciava con la pistola in mano. Con l'astuzia dei dementi, Makar Alexievich guardò il francese e, alzando la pistola, lo prese di mira. «All'abordaggio!» gridò l'ubriaco, premendo il grilletto della pistola. L'ufficiale francese si voltò a quel grido e in quell'istante medesimo Pierre si slanciò sull'ubriaco. Mentre Pierre afferrava la pistola e la levava in alto, Makar Alexievich riuscì finalmente a trovare con le dita il grilletto e si udì un colpo assordante che avvolse tutti di fumo. Il francese impallidì e si rigettò indietro verso la porta. Dimenticando il suo proposito di nascondere la conoscenza della lingua francese, Pierre, dopo aver strappata di mano all'ubriaco e gettata via la pistola, corse verso l'ufficiale e si mise a dirgli in francese: «Non siete ferito?» «Credo di no», rispose l'ufficiale tastandosi. «Mi avete salvato la vita. Siete francese. Mi domandate la grazia per quest'uomo? Ve la accordo, che lo si porti via», proferì rapidamente in francese con voce energica l'ufficiale, prendendo sotto braccio Pierre, che aveva promosso francese per avergli salvata la vita, ed entrò con lui nell'alloggio. I soldati che erano nel cortile, avendo udito lo sparo, entrarono nell'anticamera a domandare che cosa era successo e si mostravano pronti a punire i colpevoli, ma l'ufficiale li fermò severamente. «On vous demandera quand on aura besoin de vous», disse. I soldati uscirono. L'attendente, che intanto aveva avuto il tempo di andare in cucina, si avvicinò all'ufficiale. «Capitano, c'è zuppa e coscia di montone in cucina. Dobbiamo portarveli?» «Sì, e anche il vino», disse il capitano. Quando portarono il montone, una frittata, il samovar, l'acquavite e il vino di una cantina russa che i francesi avevano preso con loro, Rambal, questo è il nome dell'ufficiale, invitò Pierre a prendere parte a quel pranzo. E subito egli stesso, avidamente e prontamente, da uomo sano e affamato, si mise a mangiare, masticando in fretta coi suoi forti denti, senza smettere di fare schioccare le labbra e di esclamare «Excellent! Exquis!». Il suo viso si era fatto rosso e si era coperto di sudore. Pierre era affamato e con piacere prese parte al pranzo. Morel, l'attendente, portò una casseruola con dell'acqua calda e vi mise dentro una bottiglia di vino rosso. Sotto l'azione del vino bevuto e dopo le giornate passate in solitudine coi suoi cupi pensieri, Pierre provava un involontario piacere a discorrere con quell'uomo allegro e bonario. La loro conversazione fu interrotta da alcune voci che gridavano sul portone e dall'arrivo di Morel, che veniva ad annunziare al capitano che erano giunti degli usseri del Württemberg e volevano mettere i cavalli nello stesso cortile dove stavano i cavalli del capitano. Il litigio proveniva principalmente dal fatto che gli usseri non capivano ciò che si diceva loro. Pierre, che conosceva il tedesco, tradusse al capitano ciò che colui aveva detto e trasmise in tedesco la risposta del capitano all'ussero del Württemberg. Avendo capito ciò che gli si diceva, l'ussero cedette e condusse via i suoi uomini. Il capitano andò fuori e diede alcuni ordini ad alta voce. Quando ritornò nella stanza, Pierre sedeva allo stesso posto dove era seduto prima, con la testa fra le mani. Il suo viso esprimeva la sofferenza. Difatti, in quel momento, egli soffriva. Quando il capitano era uscito, Pierre, rimasto solo, a un tratto era rientrato in sé ed aveva avuto coscienza della posizione nella quale si trovava. Non il fatto che Mosca era stata presa e che quei fortunati vincitori vi facevano da padroni e lo proteggevano, non era questo, per quanto penoso fosse per Pierre, che lo tormentava nel momento presente. Lo tormentava la coscienza della sua debolezza. Alcuni bicchieri di vino bevuti e la conversazione con quel brav'uomo avevano distrutto la disposizione d'animo concentrata e cupa nella quale Pierre era vissuto in quegli ultimi giorni e che era necessaria per il compimento del suo disegno. La pistola, il pugnale ed il gabbano erano pronti. Napoleone faceva la sua entrata l'indomani. Pierre credeva ancora utile e giusto uccidere il malfattore, eppure sentiva che ora non lo avrebbe fatto. Il perché non lo sapeva, ma presentiva che non avrebbe compiuto il suo disegno. Combatteva contro la coscienza della sua debolezza, ma sentiva vagamente che non l'avrebbe potuta vincere, che le cupe idee di una volta sulla vendetta, l'assassinio e il sacrificio di sé erano andate in fumo al contatto del primo uomo che aveva incontrato. Il capitano, zoppicando leggermente e fischiettando qualcosa, entrò nella stanza. I suoi occhi luccicavano e i baffi avevano un leggero fremito, come se egli sorridesse fra sé di qualche buffa trovata. «Ah, les femmes, e il capitano, guardando Pierre con gli occhi umidi, cominciò a parlare dell'amore e delle sue avventure amorose. Erano moltissime, e vi si poteva facilmente prestare fede, guardando il bel viso soddisfatto dell'ufficiale e l'entusiastica animazione con cui parlava delle donne. Sebbene tutte le storie amorose di Rambal avessero il medesimo carattere licenzioso nel quale i francesi vedono l'unico piacere e la poesia dell'amore, il capitano raccontava le sue storie con tanta sincera persuasione di essere stato il solo a provare e a conoscere tutte le delizie dell'amore e descriveva le donne in modo così attraente che Pierre lo ascoltava con curiosità. Si ricordò a un tratto, inaspettatamente, del suo proprio amore per Natasha. E ripassando nella immaginazione i quadri di questo amore, li paragonava col pensiero ai racconti di Rambal. Pierre vedeva dinanzi a sé tutte le minime circostanze del suo ultimo incontro con l'oggetto del suo amore, presso la torre Sukhareva. Allora quell'incontro non gli aveva fatto impressione, non ci aveva neppure ripensato, ma ora gli pareva che quell'incontro avesse qualcosa di molto significativo e poetico. «Piotr Kirillovich, venite qua, vi ho riconosciuto!» Riudiva ora queste parole dette da lei, vedeva dinanzi a sé i suoi occhi, il suo sorriso, la sua cuffietta da viaggio, la ciocca di capelli che ne usciva fuori, e qualcosa di emozionante, di commovente, gli si presentava alla mente. E tra i vari racconti di Rambal a Pierre c'è quello di una sua storia con una bella donna polacca che egli, mosso da generosità, aveva però restituito al marito proprio alla vigilia di una fuga con lui. E a questo proposito l'ufficiale chiede a Pierre se ha mai provato il piacere di sacrificarsi per amore unito all'invidia per il marito di una donna. Provocato da questa domanda, Pierre alzò la testa e sentì la necessità di esprimere i pensieri che lo occupavano. Cominciò a spiegare come egli comprendesse alquanto diversamente l'amore per la donna. Disse che in tutta la sua vita aveva amata e amava una sola donna e che questa donna non avrebbe mai potuto appartenergli. Poi Pierre spiegò che egli amava questa donna fino dai suoi più giovani anni, ma che non aveva osato pensare a lei perché ella era troppo giovane, mentre lui era un figlio illegittimo che non aveva un nome. Poi, quando aveva ricevuto un nome e una fortuna, non aveva osato pensare a lei perché l'amava troppo, l'aveva posta troppo più in su di tutto il mondo e quindi tanto più al di sopra di se stesso. Il vino bevuto? O un bisogno di sincerità, o l'idea che quell'uomo non conosceva e non avrebbe mai conosciuto nessuno dei personaggi della sua storia, o tutto ciò insieme, sciolse la lingua di Pierre. Ed egli, con la bocca fremente e con gli occhi umidi, guardando un punto lontano, raccontò tutta la sua storia. Il suo matrimonio e l'amore di Natasha per il suo migliore amico, e il tradimento di lei, e tutti i loro rapporti così complicati. Spinto dalle domande di Rambal, raccontò anche ciò che aveva nascosto da principio, la sua posizione sociale e perfino gli svelò il suo nome. La cosa che più colpì il capitano in tutto il racconto di Pierre fu il fatto che era molto ricco, che aveva due palazzi a Mosca e che aveva abbandonato tutto e non era partito da Mosca, ma restava in città, nascondendo il suo nome e la sua condizione. Era già tarda notte quando essi uscirono insieme nella strada. La notte era tiepida e chiara. Lontano dalla casa splendeva il chiarore del primo incendio che era cominciato a Mosca. A destra, in alto, c'era l'esile falce della luna, e dalla parte opposta alla luna la brillante cometa che nell'anima di Pierre era legata al suo amore. Guardando l'alto cielo stellato, la luna, la cometa e il chiarore, Pierre provava un senso di gioia e di tenerezza. «Com'è bello! Che cosa manca ancora?» pensò, e ad un tratto, essendosi ricordato il suo progetto, la testa cominciò a girargli, si sentì male e dovette appoggiarsi alla stecconata per non cadere. Senza salutare il suo nuovo amico, Pierre, a passi incerti, si allontanò dalla porta e, ritornato nella sua camera, si coricò sul divano e si addormentò subito. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.